Economia in pagina di Gianfranco Fabi. Buonasera, buonasera ai nostri ascoltatori. Questa sera parliamo del libro di Antonio Gardo. Buonasera Antonio Gardo. Buonasera. Del libro di Antonio Gardo che si intitola Basta poco, ma ne parleremo perché questo libro si inserisce un po' in un filone che Antonio Gardo da qualche anno porta avanti. Un altro libro scritto un paio di anni fa si intitolava Non sprecare, del titolo che dice tutto, così come nonsprecare.it è il sito in cui Antonio Gardo dibatte, propone questi temi. Pensieri forti e gesti semplici per una nuova ecologia della vita quotidiana. Questo il sommario. Allora, in sintesi, Antonio Gardo, perché basta poco? Io ho pensato questo libro come una sorta di manifesto, un manifesto nel quale c'è l'indicazione di quello che secondo me può essere un grande cambiamento, già in atto tra l'altro in alcuni paesi del mondo, un cambiamento dove sono messi in discussione i nostri comportamenti, i più semplici, quelli della nostra vita quotidiana, i consumi energetici, l'uso dell'automobile, l'accortezza nel saper conservare le cose, e dove rientrano alcuni pensieri forti. Per esempio, le cose per saperle conservare bisogna innanzitutto riconoscerne il valore, al di là del prezzo. Ecco, quindi è più una filosofia che un trattato di economia. Ma guarda, è un libro costruito con l'idea di farne una sorta di manifesto, però dentro il libro ci sono tante storie, tanti personaggi, e c'è una parte alla quale tengo molto, che è una parte di denuncia delle speculazioni che si fanno nel nome del verde. Dico sempre: non fatevi accecare dal verde, perché io nel libro racconto con nomi, cognomi e società i casi nei quali si tenta di utilizzare un'immagine virtuosa, di società virtuosa, per nascondere le peggiori nefandezze. Anche questa è una grande partita che dobbiamo vincere con il futuro. La sostenibilità è una cosa seria e pulita, non può diventare un affare sporco. Ecco, una speculazione che si fa forte di valori che poi di fatto vengono contraddetti mentre vengono proposti. Certe cose come il cibo biologico rischiano di essere l'esatto contrario di quanto si propone. Ma il cibo biologico è una grandissima risorsa industriale, tra l'altro aiuta la nostra agricoltura a non scomparire sotto i colpi della concorrenza che arriva dai paesi mediterranei, però non può essere assolutamente contrabbandato attraverso sofisticate operazioni di marketing come qualcosa che abbia un valore aggiunto per la nostra salute. Insomma, comprare il cibo biologico non significa curarsi il cuore o curarsi le arterie, ma semplicemente significa acquistare del cibo che non ha avuto un trattamento con i fertilizzanti chimici, e quindi un cibo che non ha contribuito a danneggiare l'ambiente. Sono due cose, come ben capirai, molto molto diverse. Ecco, certamente. Un altro tema è quello dell'energia, il tema del risparmio energetico è uno dei temi forti. Risparmiare l'energia vuol dire fare qualche passo avanti nell'evitare la crisi prossima avventura. Sappiamo come in questo periodo i prezzi del petrolio vanno alle stelle, il nucleare ha i problemi su cui è forse inutile dilungarsi, ma quindi dobbiamo prepararci a un sistema in cui sarà necessario, indispensabile risparmiare energia. Sul sito Non Sprecare prima ricevevo quasi sempre soltanto segnalazioni di sprechi, adesso invece la maggioranza delle segnalazioni sono quelle di comportamenti che aiutano a ridurre i consumi energetici, perché questo è un problema che abbiamo tutti. La bolletta incide per circa 300 euro al mese a famiglia dei nostri costi energetici. Per farla breve, direi che noi siamo in una trappola. La trappola è la dipendenza dal petrolio nelle mani di paesi ad altissimo rischio geopolitico, paesi anche a rischio di derive, come abbiamo visto nelle settimane scorse con la Libia. Dall'altro il nucleare, che secondo me in Italia non si farà perché non abbiamo un sistema paese che può reggere un progetto così ambizioso, abbiamo più di due terzi degli italiani che sono contrari, e le fonti rinnovabili che ci fanno sognare sicuramente, ma sono ancora costosissime dal punto di vista degli investimenti e con rendimenti ancora insoddisfacenti. Che si fa? Si alza le mani? No. Il primo modo per raggiungere un equilibrio nei consumi energetici è evitare gli sprechi e quindi imparare a consumare bene l'energia. Ecco come basta poco. Facciamo l'esempio dell'automobile. Gli italiani sono dei grandi consumatori di auto, ne abbiamo 64 ogni 100 abitanti, sono veramente tante, e la usiamo malissimo perché quasi il 30% dei nostri spostamenti avviene su percorsi inferiori ai 2 km. Ecco, questo percorso lo possiamo tranquillamente fare con un mezzo pubblico, con una bicicletta, a piedi, quindi contribuendo al miglioramento della nostra salute. E risparmieremo soldi, multe, parcheggi, oltre che dare un contributo di riduzione dei consumi energetici. Così il costo del riscaldamento. Pensate che un solo grado, uno solo di temperatura in più in casa durante l'inverno vale il 7-8% della bolletta. E pensate che un semplice split di aria condizionata durante l'estate consuma 4 volte un frigorifero. Questi consumi dissennati, quelli per cui stiamo in casa con una maglietta a maniche corte durante l'inverno e in pullover durante l'estate, è qualcosa che, come dicevi, non possiamo più permetterci. La crisi, però, attenzione, in questo senso io la considero una opportunità, una straordinaria opportunità di cambiamento, e basta poco per agguantarla. Ecco, un altro particolare di questo libro è dedicato alla società tecnologica, a internet. Leggo solo due titoli dei capitoli: più connessi, più soli, e come liberarsi dalla schiavitù, la schiavitù di internet? Sì, questo è il vero crinale sul quale navigano, per restare al linguaggio tecnologico, per esempio le mie figlie adolescenti, ed è il crinale tra la libertà e la schiavitù. Internet è il luogo della libertà per eccellenza ed è un luogo che offre delle straordinarie opportunità. Ma se cominciamo a usarlo, come siamo stati ossessionati in generale dai consumi in questi ultimi anni, lo trasformiamo in un luogo di schiavitù. Che cosa voglio dire? Che quando, e nel libro racconto delle storie, racconto perfino di famiglie con figli che sono andate dal medico per curarsi da questa forma di alcolismo, quindi di dipendenza dalle tecnologie. Quando sono andato in Inghilterra ho scoperto che il governo inglese su questo ha fatto degli studi molto molto precisi, arrivando a stabilire che i nostri figli sono collegati nel mondo virtuale quasi 10 ore al giorno. Queste sono le punte, evidentemente. Capirete bene che con questi numeri si rischia di sovrapporre il virtuale al reale, si rischia di creare un cortocircuito che non è solo quello della concentrazione che diminuisce, della capacità di assorbimento, ma in generale proprio di una prospettiva della vita. Tenete presente che anche la famiglia Obama è significativa questa storia. Obama è stato eletto anche grazie a Facebook, però sua moglie, d'accordo con lui, ha vietato alle figlie minorenni l'uso di Facebook. Bill Gates sarà ricordato nella storia come il padre del computer, ma ha contingentato i tempi dell'uso del computer in casa, 45 minuti al giorno. Secondo me le prescrizioni non servono, servono alternative, serve la nostra capacità attraverso la rete familiare di costruire e tenere attivo un canale di comunicazione con i nostri figli, e serve, ecco, basta poco, recuperare un gesto semplice, il piacere della conversazione. Ecco, proprio questi gesti semplici, tu parli spesso della conversazione, del fatto di fare una passeggiata, del fatto di riscoprire il piacere della lettura, di fare delle cose che forse sono tradizionali, che però sono dei valori che danno anche delle soddisfazioni personali forse maggiori della frenesia invece di inseguire la velocità, di inseguire la tecnologia. Quindi ritornare un po' a un livello, a una dimensione di rapporti più semplici, più umani, ma in fondo anche più profondi. La nostra storia, come diceva Dico, è fatta di corsi e ricorsi. Io credo che il progresso non sia solo andare avanti, ma qualche volta anche tornare indietro laddove è utile. In Europa abbiamo diminuito la nostra capacità di passeggiare, di camminare quasi del 15% negli ultimi 10 anni. È una cifra che fa riflettere, perché qualsiasi medico spiega quali sono tutti i benefici di una passeggiata, ma ce n'è uno che secondo me viene prima di tutti, ed è liberarsi dalla prigionia del tempo, liberarsi dall'ossessione, recuperare spazio e tempo, e quindi anche dare ossigeno al corpo e ai propri pensieri. Questo vale anche, secondo me, a proposito di tornare a delle sane abitudini, che io non considero dei gesti virtuosi. Sul sito mi segnalano continuamente non sprecare azioni virtuose. Io le considero azioni di buon senso, ma come possiamo pensare di avere gli armadi pieni di oggetti che poi non usiamo e che infiliamo nella spazzatura? Come possiamo pensare di essere compatibili con il mondo in cui stiamo vivendo se gettiamo nella spazzatura quasi il 20% del cibo che mangiamo. Ecco, saper conservare gli oggetti e quindi riscoprire il gusto della manutenzione significa, basta poco, il pensiero forte, riscoprirne il senso, il gesto semplice, non sottrarsi a quella forma di ricatto che ci viene fatto ogni volta che vogliamo riparare un elettrodomestico e il negoziante ci dice le conviene comprarlo nuovo. Grazie mille, grazie. Grazie Antonio Gardo, purtroppo siamo un po' schiavi del tempo, il tempo è per sua natura limitato, bisogna saperlo sfruttare bene, sapere anche conquistare del tempo, ma in radio i tempi sono abbastanza rigidi di questo, dobbiamo comunque considerarli non tanto come una gabbia quanto come un'opportunità. Dobbiamo concludere, grazie ad Antonio Gardo, abbiamo parlato del libro Basta Poco, edito da Einaudi, 168 pagine, 16,50 euro, un manuale pratico per usare meglio il nostro tempo, il nostro spazio e anche i nostri soldi. Ringrazio Fabio Cantadori in regia e Anita Panizza in redazione. Vi ricordo che questo programma, come gli altri programmi di Radio 24, può essere riascoltato dal sito www.radio24.it. Grazie e buona serata.